La sunamita, una pensatrice creativa. Con pochi tratti decisi, la Bibbia ne traccia il ritratto. Una grande donna molto ricca, sposata con un uomo più anziano e senza figli. Il suo nome non è reso noto. Viene chiamata la sunamita, appellativo derivato dalla città dalla quale proviene, come per noi italiani Leonardo da Vinci. Shunam era situata nel nord di Israele, vicino a Nain, un'altra città che, 1000 anni più tardi, sarebbe stata resa famosa in virtù di uno dei tanti miracoli operati da Gesù, il quale qui risuscitò il figlio di una vedova. La Bibbia non lascia dubbio sul fatto che il marito tradizionalmente fosse il capo della famiglia, ma questo non significava che la donna non potesse fare altro se non ubbidire ed essere una persona priva di iniziative personali. Questa è un'opinione da sfatare, perché le donne ebree capaci avevano molto più spazio di quanto si pensi, anche perché il marito ne traeva solo un vantaggio. La donna sunamita era la più energica e probabilmente la più giovane dei due sposi. Condivideva i suoi piani con suo marito e le decisioni erano prese assieme. I caratteri maturi non desiderano dominare, anzi, cercano di lavorare armoniosamente l'uno con l'altro, perché il matrimonio possa funzionare secondo la volontà di Dio, anche quando altri fattori, come per esempio una grande differenza di età, non sono particolarmente favorevoli. Dio crea ogni essere umano in un modo unico, e queste unicità devono essere complementari nel matrimonio. Sta ad ogni individuo, marito o moglie, realizzare quali sono i suoi doni e usarli in tutto il loro potenziale, in armonia. La sunamita era estremamente ricca e avrebbe facilmente potuto permettersi di essere indisciplinata, godendosi tutto ciò che il denaro poteva comprarle. Essendo una donna senza figli e con un marito anziano, avrebbe facilmente potuto condurre una vita arida, senza mete, darsi ad ogni tipo di piacere, nutrendosi di autocommiserazione, ma non lo fece. Questa donna aveva molti interessi nel mondo che la circondava. Pensava prima agli altri che a se stessa, osservava le persone attentamente. Per questo aveva notato fra i tanti che molto spesso frequentavano la sua casa un individuo eccezionale, il quale recava con sé un servo. Essendo ospitale, lo invitò a consumare un pasto con loro, perché si rese conto che era una persona insolita. Era il profeta dal nome Eliseo. Mentre come casalinga si curava delle sue responsabilità giornaliere, essa si domandò: «Cosa posso fare io per questo servo di Dio?» Ebbe quella che, certamente per i suoi tempi, era un'idea originale. «Farò una camera per gli ospiti per lui. Non un qualcosa di temporaneo come una tenda, ma qualcosa di solido che possa durare». Con l'aiuto del marito, fece costruire una camera per Eliseo, al piano superiore della loro casa. La sunamita, nel suo desiderio di servire Dio, ricevette un'idea creativa per lui, qualcosa di nuovo, qualcosa di utile per il servizio del profeta. Nella stanza c'erano un letto, un tavolo, uno sgabello ed un candeliere. Ne fece un luogo dove Eliseo poteva lavorare, oltre a dormire. Non dimenticò nulla di indispensabile. Così Eliseo, nel passare da quelle parti, restava con loro. Tutto questo era stato preparato per essere usato a lungo e ripetutamente. Senza dubbio c'era anche posto per il servo Gecazi. La sunamita era contenta di usare il suo denaro per aiutare coloro che avevano bisogno. Invece di offrirgli dei soldi, perché Eliseo potesse pagarsi da dormire e da mangiare, si prese la briga di costruire un ambiente nuovissimo per lui. Nel condividere i suoi beni, diede se stessa e di conseguenza Dio la ricompensò. Eliseo, attraverso il suo servo Gehazi, le aveva chiesto: «Poiché ti sei tanto disturbata per noi, cosa possiamo fare per te?» La donna, riconoscente, rispose di non avere alcuna richiesta da fare, perché possedeva tutto ciò di cui aveva bisogno. Il servo Gehazi, osservatore attento, disse più tardi al suo padrone: «Non ha figli e suo marito è anziano». Allora il profeta Eliseo le promise un figlio, ma di fronte a una tale promessa la sunamita non osò crederci. «No, signor mio, per piacere non mentire alla tua serva». Ma non era stato un inganno, Era una promessa sicura. Infatti, un anno più tardi, essa diede alla luce un figlio. Un giorno, quando il ragazzo aveva circa 3 o 4 anni, accompagnò il padre nei campi. Passato un po' di tempo, accusò un grande dolore alla testa, morendo dopo poche ore. Sua madre mise il corpo morto sul letto del profeta nella stanza nella quale lui pregava e meditava, e corse giù di corsa. Vedeva un'unica soluzione, Dio. Poiché Dio gli aveva dato questo figlio, lui era l'unico che potesse aiutarla. Si precipitò dal suo consacrato rappresentante Eliseo, che allora si trovava sul Monte Carmel. Forse i suoi pensieri sono tornati indietro a quell'altro profeta, Elia, che non molto tempo prima aveva risuscitato un bimbo, figlio della vedova di Sarepta, dai morti. Non era, forse, lo spirito di Elia che restava su Eliseo? Non c'era tempo da perdere. Informò il marito di aver deciso di andare dal profeta, ma senza sprecare tempo in ulteriori spiegazioni. I 40 chilometri che la separavano dal profeta non sembravano poi tanto lunghi. «Ha senso che io faccia questo viaggio?» forse chiese a se stessa. «Anche se mio figlio è morto». Eliseo la vide arrivare da una certa distanza e capì che qualcosa non andava, anche se non sapeva il perché. La sua intenzione era di mandare il suo servo indietro con lei perché l'aiutasse, ma la sunamita non ne fu soddisfatta. Voleva parlare direttamente con Eliseo e così fece. Disse a Eliseo che sarebbe tornata a casa solo se lui l'avesse accompagnata. Prima di avere il figlio era già contenta della sua situazione e non aveva chiesto nulla a Eliseo. Ma ora il bambino le mancava tanto. Sentiva che l'unico in grado di restituirglielo, altri, non poteva essere se non quell'uomo lo strumento per il quale le fu possibile ricevere il bambino da Dio. Poiché si era impegnata a soddisfare i bisogni di Eliseo, poiché non gli aveva mai rifiutato nulla, si aspettava ora che lui tornasse con lei. Eliseo comprese il dolore della donna e la seguì. Arrivati a casa, proprio come aveva fatto prima di lui Elia, Eliseo si distese sopra il piccolo corpo del morto fino a che questo si riscaldò e dopo aver una seconda volta ripetuto il gesto, il fanciullo risuscitò dai morti. La sunamita ricevette così suo figlio per la seconda volta. Prima l'aveva ricevuto al prima nascita, ora dalla morte. Non ebbe bisogno di fare preparativi per il funerale. Preparò invece una festa. Ma questa non fu l'unica benedizione che ricevette la sunamita. Alcuni anni più tardi il paese fu minacciato da una carestia. Essa tuttavia fu avvertita in tempo dal profeta di trasferirsi con la famiglia altrove, per sfuggire alla fame. Solo 7 anni dopo tornò nel suo paese. Durante l'assenza aveva perso la casa e i campi, quindi andò dal re per chiederne la restituzione. Volle Dio che, in quel momento, il servo Gehazi stesse proprio illustrando al monarca ciò che Eliseo fece al figlio della sunamita. Il re, felicissimo, non solo la esaudì, ma le diede anche tutti i frutti prodotti dai terreni durante la sua assenza. Perché? Perché era la donna alla quale era stato resuscitato il figlio da Eliseo e perché essa aveva dato il suo contributo a lui, al regno di Dio e al popolo di Israele. La sunamita era solo una donna e per lo più giovane, ma era una donna dalle idee creative. Una donna che, per la sua dedizione disinteressata, aperse le porte della benedizione su di se stessa. Come leggiamo nel libro dei Proverbi, in merito alla donna virtuosa, la sunamita ha teso la mano al povero e ha aiutato il bisognoso. La persona che dona diventa quella che riceve. Questo è sempre vero per la persona che si confida in Dio, che guarda alla ricompensa divina e non a quella umana. E per questo che Gesù dirà, più tardi, di fare del bene a chi non ha possibilità di ricompensare. La storia della sunamita assomiglia all'episodio avvenuto secoli dopo a Betania, dove Gesù e i suoi discepoli si recavano spesso, contenti di starvi. Anche lì una persona fu risuscitata dai morti. Lazzaro. Le sue sorelle avevano più volte accolto Gesù e lo avevano servito in tutto quello di cui aveva bisogno. Creatività viene dalla parola latina creatus ed è collegata alla parola creatore. Era la relazione della donna su una meta con Dio, il Creatore, a fare di lei quella che era. Un cammino genuino con Dio porta alla creatività, suscita sempre idee nuove e genuine. La persona che si chiede come servire Dio con i mezzi a sua disposizione riceve delle idee che, per così dire, vengono direttamente dal cielo. Non sono idee dovute alla emotività o alla presunzione, ma idee pratiche, realizzabili, rientranti nel potenziale che Dio dà alla persona. Lo Spirito Santo ispira alla creatività, comunica e inventiva. Della Sunamita, questo non significava lavorare direttamente per il Tempio di Dio, come fecero Bezalel e Oholiab, i disegnatori degli arredi del tabernacolo, o come Salomone, che costruì il Tempio. La Sunamita serviva Dio entro i limiti della sua casa e, così facendo, riuscì a cancellare da se stessa l'immagine stereotipata della casalinga dedita a occupazioni abitudinarie, per quanto si tratti di un ruolo più che onorevole e molto importante. Essa usava i suoi possedimenti materiali per il benessere degli altri, perché era cosciente che noi non possediamo nulla, ma amministriamo solo ciò che appartiene a Dio. La Sunamita si procurò dei tesori in cielo già prima che Gesù lo ordinasse ai discepoli. Uno studio della vita della Sunamita rivela che Dio la ricompensò abbondantemente e per l'eternità. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,